le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Cari ascoltatori, un saluto. Simone Spezia non c'è da tutta la settimana, ma tornerà la prossima settimana, quindi effetto giorno qui è con Gigi Donelli, la redazione di Radio 24. E mentre scoccano le 13 ci ritroviamo a raccontare quello che di fatto è stato il nostro tema principale della settimana, dunque il grande fronte della migrazione. Allora partiamo dai titoli e dopodiché approfondiamo i titoli. La crisi in Ungheria, profughi, migranti si mettono in marcia in questi minuti, lasciano la stazione dove ormai da giorni sono bloccati dalle autorità. Un programma dell'Unione Europea per collocare 200.000 rifugiati, tutti gli stati devono partecipare, dice appunto la Commissione. E ora anche il Pentagono lancia l'allarme, dice la crisi durerà 20 anni, Putin replica, l'avevamo detto, le conseguenze politiche ricadono soprattutto sull'Occidente. Padoan, deficit cala, taglieremo le tasse, l'UE non potrà dire di no alle riduzioni non solo sulla casa, importante la tenuta del governo. Questi i titoli principali di questa giornata, poi come sentirete insomma gli spunti sono numerosi e diversi, ma andiamo dritti come si dice alla stazione allora di Budapest, dove Valentina Furlanetto ci aggiorna sulla notizia di fatto degli ultimi momenti. Dunque, dopo l'attesa, che cosa accade Valentina? Allora Gigi, buongiorno a te gli ascoltatori innanzitutto, non sono in stazione Chieletti ma sono su uno dei grandi viali che porta fuori dalla città, perché tutte, un gran parte delle persone che si erano assiepate in questi giorni dentro e davanti alla stazione Chieletti di Budapest hanno deciso di partire a piedi verso l'Austria, come tu hai preannunciato. Sono circa a colpo d'occhio 200-300 persone, chiaramente qui non esistono dati della questura né degli organizzatori, anche se un'organizzazione c'è. C'è stata una specie di assemblea questa mattina dei leader autoproclamati, tra cui anche una donna, Carmen, siriana, hanno parlato, hanno deciso insieme, hanno discusso, hanno deciso insieme di partire. Ci sono bambini piccoli, c'è anche un signore in carrozzina, qualche invalido. Ecco Valentina, Valentina, torneremo da te naturalmente nello spazio che dedichiamo all'approfondimento. Una sola domanda per adesso, le autorità ungheresi come reagiscono a questo movimento? Le autorità cioè non hanno fermato la partenza, la polizia? No, non hanno fermato la partenza, queste sono persone libere e quindi hanno iniziato a camminare, non c'è una decisione concordata. Grazie a Valentina Furlanetto, torneremo da lei tra poco. Dunque questa è l'ultima notizia appunto legata a questa crisi che in questi giorni si concentra soprattutto in Ungheria, ma non solo. E allora cominciamo, o meglio ricominciamo, facendo il punto nel servizio di Laura Bettini, che ci dà appunto il quadro generale di questa nuova giornata della crisi della migrazione. Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio Esteri Informali della UE, esaminerà la proposta di Italia, Francia e Germania per la revisione del sistema d'asilo e l'eventuale passaggio alla missione navale europea antiscafisti. La Commissione intanto è al lavoro su un nuovo piano che preveda una più equa redistribuzione delle quote di migranti, che per Germania e Francia dovrebbero anche essere obbligatorie. La Gran Bretagna, dopo la scossa della morte di Aylan sulla spiaggia turca di Bodrum, ha fatto oggi un mezzo passo indietro. Parlando da Lisbona, il premier Cameron ha affermato che il suo paese riaprirà le porte e accoglierà altre migliaia di persone, ma solo tra quelle ancora nei campi profughi alle frontiere siriane. Ribadiscono invece il no all'accoglienza obbligata i paesi del centro-est europeo, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca, che oggi si riuniscono a Praga. Secondo l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, l'Unione Europea dovrebbe approntare un programma di ricollocazione di massa per circa 200.000 persone, con la partecipazione obbligatoria di tutti gli Stati membri. È una crisi che durerà 20 anni, dice il Pentagono sull'esodo dei migranti, come l'ha definito il generale Dempsey, capo di Stato Maggiore delle Forze Armate statunitensi. La questione è anche sul tavolo della NATO e degli Stati Uniti, ha detto. Dobbiamo affrontarla come un problema generazionale, organizzarci e preparare risorse. Accompagnato da alcuni deputati turchi, oggi il padre del piccolo Aylan ha fatto rientro in Siria per seppellire la sua famiglia morta nel naufragio al largo della costa turca. Per me non chiedo più nulla, ha detto. Chiedo solo che in Siria torni la pace. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ora invece andiamo a Cernobbio. Anna Marino, si parla di crisi e immigrazione anche nella classica, diciamo, di inizio settembre. Anna. Sì, buongiorno a te Gigi, buongiorno agli ascoltatori alla 41esima edizione di The European House Ambrosetti a Villa d'Este. Oggi più che mai il focus, come dicevi, è su questioni globali, dalle incertezze sul piano dei mercati dopo il terremoto delle borse asiatiche all'immigrazione. Si fa portavoce delle preoccupazioni sullo scenario proprio del nodo immigrazione, ministro degli esteri Paolo Gentiloni, che parla di un nuovo tipo di minaccia a cui siamo sottoposti, soprattutto in Italia. Bisogna reagire con un approccio multilaterale, dice, e soprattutto fa due considerazioni. Primo, si tratta di un fenomeno di lunga durata. Poi ci sono in gioco alcuni valori di civiltà e di libertà, perché è necessaria, dice, una reazione che non spaventi, e sostiene la necessità perciò di rivedere la Convenzione di Dublino, se no anche il Schengen è a rischio, e questa sarà la sua posizione oggi nell'incontro europeo a Bruxelles. Sentiamo. Bisogna lavorare gradualmente per arrivare a un asilo europeo, cioè i rifugiati non sono costretti a rimanere nel paese di frontiera in cui arrivano, ma hanno un permesso più europeo. Naturalmente non è una cosa che si fa in due giorni, bisogna lavorarci, costruire una posizione comune. La Germania ha dato delle aperture in questo senso, almeno per i rifugiati siriani. Se non si modifica l'attuale sistema di accoglienza e si continua con il moltiplicare di focolai di tensione nei vecchi confini dell'Unione Europea, rischiamo di mettere in discussione una delle cose più straordinarie che l'Europa ci ha regalato, e cioè Schengen e la libertà di circolazione. L'incertezza colpisce anche i mercati e ci sono nuovi nodi che hanno bisogno di interventi immediati, come spiega il numero uno di Unicredit Federico Ghizzoni. Al primo posto ci sono i paesi emergenti, a partire dalla Cina, con crescita in declino. Non certezza anche su cosa farà la Fed, non è chiaro cosa faranno i paesi europei sul fronte della crescita. Secondo, ma la carne e l'Islam sono importanti per l'Italia, ma non sufficienti le scoperte come quella del gas fatta da Eni, ma sono necessarie anche infrastrutture europee. Anche qui strategie comuni, e per ora è tutto. Grazie ad Anna Marino. Ed ora, oggi, il Consiglio dei Ministri, gli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act. Ci racconta tutto Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Il Consiglio dei Ministri è cominciato poco dopo le 11 ed è ancora in corso. Piatto forte gli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act, con i quali si chiude di fatto il cerchio sull'operatività della riforma del mercato del lavoro. I capitoli riguardano il riordino degli ammortizzatori sociali, la semplificazione dei rapporti di lavoro, la creazione dell'agenzia unica ispettiva che partirà dal 2016, le nuove politiche attive sul lavoro. Tema caldo quello sul controllo a distanza da parte dei datori di lavoro, utilizzando i dati raccolti con le nuove tecnologie per interventi disciplinari, una norma al centro di un braccio di ferro tra Parlamento e Governo, criticata dai sindacati preoccupati di un eventuale abuso nei confronti dei lavoratori. Secondo il Governo però sarebbe rispettosa della privacy, ma non sono esclusi ritocchi dell'ultima ora. Per il resto non dovrebbero esserci modifiche sostanziali rispetto ai testi che hanno ottenuto il primo ok da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso giugno. All'esame poi anche cinque decreti legislativi in attuazione della delega fiscale, dalla semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione alla stima e al monitoraggio dell'evasione fiscale. Infine, in arrivo anche un provvedimento per inasprire le sanzioni relative ai reati sportivi. Per il momento è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Restiamo in zona, infatti oggi era il giorno dell'incontro dopo, come dire, dopo la fine dell'estate, delle vacanze estive, tra il sindaco di Roma Marino e Franco Gabrielli. Andrea Viali. Sì, buongiorno. L'incontro è iniziato puntuale a mezzogiorno ed è ancora in corso. Sul tavolo c'è la questione, essenzialmente la questione del giubileo. Sia Marino sia Gabrielli sono entrati in Campidoglio poco fa senza rilasciare dichiarazioni. Fra i due è il primo faccia a faccia, lo dicevi, dopo la decisione del governo di affiancare il prefetto al sindaco nella gestione del giubileo, ma anche di quei settori dell'amministrazione capitolina, dell'amministrazione comunale, che sono finiti al centro dell'inchiesta su Mafia Capitale. L'incontro inevitabilmente dovrà servire anche a fare chiarezza, diciamo, sui rispettivi ruoli, a migliorare la collaborazione tra comune e prefettura. Non è ancora chiaro se al termine ci sarà una conferenza stampa, un punto con noi giornalisti. Sempre sul giubileo, nel corso della giornata, nel pomeriggio, Marino dovrebbe dovrebbe avere altri due importanti incontri, prima a Palazzo Chigi, poi anche in Vaticano. Non si conosce però al momento l'orario. Il sindaco, lo ricordiamo, è rientrato soltanto ieri a Roma dalle sue lunghe vacanze all'estero, ai Caraibi e negli Stati Uniti, vacanze che hanno anche alimentato qualche polemica, qualche malumore per la sua prima uscita pubblica. Ieri ha scelto la fiaccolata antimafia che è stata organizzata nella piazza dove, lo ricorderete, ad agosto c'era stato il funerale show del boss Vittorio Casamonica. Come hanno cacciato i fascisti e i nazisti, i romani cacceranno anche i mafiosi, ha dichiarato nell'occasione Marino. Per ora dal Campidoglio è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Ci sono ancora novità dall'Ungheria, appena chiuso un valico di frontiera, il valico di frontiera autostradale con la Serbia. Insomma, tutto questo mentre, pensate, il governo ungherese sta discutendo oggi le nuove regole sull'immigrazione. Insomma, una situazione davvero a dir poco mobile. Allora sentiamo con Deborah Rosciani come reagiscono i mercati a tutta questa mobilità. Deborah, prego. Situazione mobile anche in borsa, Gigi, questa mattina, mobile verso il basso però, perché abbiamo un nuovo quadro decisamente pesante per i listini del vecchio continente, con Milano che guida i cali, meno 2,43% sul FTSE MIB, oltre 2 punti di ribasso a Francoforte, a Parigi e anche a Londra, anzi Londra adesso perde l'1,68%. Da stamattina sale l'attesa per la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro americano, con gli esperti che mettono in conto un calo della disoccupazione che potrebbe incoraggiare una mossa restrittiva della Federal Reserve già il prossimo 17 settembre. Ieri invece, dopo le indicazioni della Banca Centrale Europea, che ha dato una sforbiciata alle stime sulle prospettive della zona euro, i mercati erano stati molto positivi perché Mario Draghi ha promesso di implementare ulteriormente le azioni di stimolo monetario in Europa. I titoli più penalizzati a Piazza Affari, con 4 punti di ribasso, troviamo il Banco Popolare, Monte dei Paschi, Azimut e Unicredit. In positivo abbiamo solamente Pirelli, che guadagna appena lo 0,07%, e l'euro scivola sempre più in giù sul dollaro a 1,1140. È tutto. Grazie. Un anello e 2 biglietti aerei sono gli indizi che collocano Camara Mamadou, il 18enne ivoriano, sul luogo del delitto, la casa dei coniugi uccisi a Palagonia, nel Catanese. È pesante il quadro di accuse a carico del 18enne ivoriano, sospettato di aver ucciso il 30 agosto Vincenzo Solano e sua moglie Mercedes Ibanez nella loro casa di Palagonia, a Catania. All'omicidio si aggiunge ora l'accusa di violenza sessuale che l'autopsia al corpo di Mercedes avrebbe confermato. Lo ha riferito il procuratore Giuseppe Verzera, che parla di prove granitiche. E poi indizi su indizi. La refurtiva trovata nel suo borsone, i vestiti insanguinati, le immagini delle telecamere che lo riprendono la notte del 30 agosto nei pressi di Villa Solano, e un suo anello trovato nella casa. Secondo il procuratore, Camara potrebbe aver avuto contatti con persone del posto che lo avrebbero informato di un eventuale tesoretto a casa delle vittime. Il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo, dove dall'8 giugno scorso era ospite l'ivoriano, è un'emergenza di Stato, ha aggiunto Verzera, e bisogna potenziare le forze di polizia perché le 3.000 persone ospitate non sono gestibili. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Scatta oggi il fine pena per Luigi Chiatti, il mostro di Foligno. Condannato a 30 anni per gli omicidi di Simone Allegretti, 4 anni, e Lorenzo Paolucci, 13, con indulto e sconti vari, Luigi Chiatti, il mostro di Foligno, ha finito di scontare la sua pena, 22 anni e 28 giorni. Resta la misura di sicurezza confermata a luglio scorso, quando un pool di esperti ha stabilito che è ancora socialmente pericoloso. In Chiatti, hanno scritto, non è stato riscontrato alcun minimo atteggiamento di rimorso o di dolore per i fatti commessi. Dal carcere viene dunque trasferito in un ospedale psichiatrico giudiziario non ancora dismesso, secondo quanto si è appreso quello di Montelupo Fiorentino, perché la Toscana non ha ancora le REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. L'internamento di Chiatti va garantito, sottolinea l'avvocato Giovanni Picuti, legale dei familiari delle vittime. Perché Chiatti ha dichiarato nel corso del processo, ma successivamente anche, che sarebbe tornato a colpire una volta lasciato libero. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stasera e domani gli U2 saranno in concerto a Torino, 30.000 spettatori attesi. Domenica Bono Vox sarà invece all'Open Plaza di Expo a Milano. And I wait without you. Mancano ormai poche ore all'attesissimo ritorno degli U2 al Palalpitour di Torino, debutto europeo del tour mondiale iniziato nel 2014 a Vancouver e che si concluderà a Parigi il 15 di novembre. Stasera e domani Bono e compagni si esibiranno su un palco di 20 metri aperto a 360 gradi. Non c'è da aspettarsi nessuna scenografia spettacolare, ma la scaletta in programma è sufficiente ad emozionare il pubblico. Dai brani dell'ultimo album Songs of Innocence alle canzoni storiche come With or Without You e Bullet the Blue Sky. Per le due serate, le uniche in Italia, sono 30.000 gli spettatori attesi, molti dei quali sono in coda già da ieri sera e per la seconda volta a distanza di 5 anni i componenti della band hanno distribuito circa 200 pizze ai fan accalcati fuori dai cancelli. Domenica invece Bono Vox sarà all'Expo di Milano per partecipare ad una manifestazione benefica in favore del World Food Program. Sul palco, insieme al cantante degli U2, anche il premier Matteo Renzi. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulle note degli U2 con Carlo Genta, un flash per anticipare naturalmente l'appuntamento delle 14. Ciao Carlo. Una delle mie canzoni preferite, ciao Gigi, ciao a tutti. Appuntamento delle 14 con tutti i convocati, 14, 15 e 30. C'è una nazionale onestamente deprimente di cui parlare, 1-0 con Malta, che hanno avuto ragione gli assenti, cioè quelli che non hanno disertato lo stadio di Firenze. Parleremo anche delle amichevoli con l'Inter che ha perso con il Lecco, con il Milan, con il Balotelli che è tornato al gol facendo eccitare Galliani e poi c'è Monza Formula 1, c'è il basket, domani cominciano gli europei, quindi un sacco di temi dalle 14. Grazie a Carlo Gente, ora gli aggiornamenti per chi è in viaggio. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, benvenuti dunque allo spazio di Effetto Giorno, anche oggi dominato di fatto dalla grande crisi della migrazione. Le ultime agenzie sembrano tutte concentrarsi verso l'Ungheria, ve ne cito alcune: 300 migranti fuggono da un campo in Ungheria al confine con la Serbia, la polizia ungherese, le guardie di frontiera chiudono il confine con la Serbia. In tutto questo l'Ungheria stessa apre la discussione in Parlamento sulla legge della migrazione, le comunità islamiche dei Balcani si mobilitano per aiutare i profughi, insomma una questione internazionale davvero ormai senza confini e con una serie di luoghi e di racconti che allora ci riportano di fatto lungo la via ferrata a Budapest, dove c'è la nostra Valentina Furlanetto. Valentina. Sì Gigi, io sono in questo grande boulevard Rakowski davanti alla stazione che va verso fuori città, perché queste persone, come dicevamo all'inizio, hanno deciso, parte di loro, circa 200-300 persone, di partire a piedi e di andare in Austria, cosa che non era concessa fare dalle autorità ungheresi via treno. Sono circa 175 chilometri che intendono percorrere a piedi, ci sono dei bambini, ci sono bambini in passeggino, bambini a piedi, anche persone in carrozzina, una situazione insomma di grande difficoltà. Qui fa molto caldo, Gigi, hanno delle bottiglie d'acqua ma chiaramente hanno poco bagaglio ed è ovviamente impressionante vedere questa fiumana di gente che attraversa la città. Ci sono delle volanti della polizia in questo momento che stanno osservando per ora e scortando il corteo che occupa anche una carreggiata della strada, quindi probabilmente controllano anche la sicurezza e il traffico. Segnalo anche un'altra agenzia dalla fonte ufficiale che descrive: nell'Ungheria negli ultimi 24 ore si è registrato l'arrivo di 3.313 migranti e profughi, nuovo record per il flusso migratorio in una sola giornata, questo naturalmente per la provenienza che in questo caso arriva da sud, da Belgrado e dalla frontiera di Subotica verso dunque Budapest. Da questo punto di vista continua Valentina ad essere, diciamo, una situazione relativamente, compatibilmente tranquilla o sta cambiando anche il clima? Dal punto di vista degli arrivi continuano ad arrivare anche in stazione persone, anche ieri sera sono arrivate delle persone che erano ignare di quello che stava accadendo e che cercavano appunto di salire su un treno anche stamattina, ma la stazione era presidiata dalla polizia chiaramente, quindi anche qui nella capitale continuano gli arrivi. D'altra parte questo muro che è stato eretto, che poi è una fortificazione di filo spinato e di rete, non dissuade dal passare perché è molto facile sollevarla, come abbiamo visto nelle scorse settimane, e quindi continua l'afflusso. E quindi è una fiumana di gente che, diciamo, che dalla Serbia a Budapest e poi continua verso l'Ungheria. A questo punto un esodo davvero biblico. Ecco, c'è qualcosa che ha fatto scattare, diciamo, la partenza, la decisione? Tu tra l'altro hai mandato anche un frammento di intervista, chiedo allora in regia se ce l'abbiamo di sentire, perché c'è... sentiamola insieme, poi ne parliamo un attimo. What you decided? What? Are you going? Yes, walking to Vienna. All people together, yes. Even with children. Yes, children and insomma, chiarissimo, walking to Vienna, yalla yalla, andiamo, forza forza, quindi arabi, voci, beh, d'altra parte la maggioranza, come ci descrivevi, sono siriani. Ecco, diciamo, ma c'è qualcosa che ha fatto scattare questa decisione o è solo l'attesa? C'è stata un'assemblea questa mattina a cui tra l'altro ha partecipato e ha parlato pubblicamente anche una donna, la prima volta, una donna senza velo, a capelli scoperti, si chiama Carmen, è una donna molto volitiva che ha spronato la folla a parlare. Insieme a lei c'erano altri due leader, tra virgolette, di questo gruppo, di queste migliaia di persone che c'erano in stazione, e penso che fosse la stanchezza, quello che mi hanno detto è la stanchezza, la frustrazione, la sensazione che nulla stia cambiando. Ieri ho parlato con un signore cardiologo di Damasco di 50 anni, anche lui ha dormito in stazione con tre figli e la moglie dentista. Lui mi diceva: io ho i soldi in tasca ma non ho i documenti, quindi domani mattina parto a piedi. Quindi già ieri sera si subodorava che qualcosa stava per avvenire in questo senso. Ecco, già la migrazione, diciamo, il grande disastro della guerra in Siria in qualche modo ci ha abituato al fatto che qui siamo di fronte anche di una migrazione che è davvero trasversale alla società siriana, quindi il cardiologo, quindi naturalmente anche lavori manuali e così via. Ecco, c'è stato addirittura un momento di contestazione interna tra le comunità siriane. Hanno parlato anche stamattina, hanno discusso fra loro, alcuni non erano d'accordo. Ieri invece c'è stato un episodio curioso, mettiamola così, un po' inquietante. C'è stato un ragazzo siriano che si è presentato in mezzo a questa fiumana di persone che era accampata davanti alla stazione pacificamente, perché sono tre giorni in cui non succedono incidenti, sono molto tranquilli nonostante la frustrazione e la stanchezza. E questo ragazzo portava una bandiera del governo siriano e inneggiava al dittatore della Siria, ovviamente con canti e balli. Ovviamente alcuni si sono molto arrabbiati, altri hanno cercato di fermarli. Era chiaramente una provocazione, non si capisce da dove sia arrivata, perché chiaramente le persone qui sono profughi che scappano da quel regime. Quindi è un po' strana questa incursione, diciamo, ieri, che c'è stata. E ci sono delle tensioni, la sensazione è che qualcuno voglia magari provocare della tensione. Devo dire che sono bravi, che ci danno una lezione di civiltà in queste persone che ho incontrato, perché resistono alla tentazione dello scontro. Sono molto calmi, sono anche molto provati, quindi sarebbe facile, insomma, arrivare a delle tensioni forti. Un'ultima battuta prima di salutarti, poi ritorneremo naturalmente con Valentina Furlanetto nel corso dei nostri notiziari. Questa partenza coinvolge l'intera, diciamo, popolazione straniera della stazione o è solo una parte di loro che si sono messi allora in marcia? Intanto ti dico che sono in piazza Caroli Corus, io sono alla coda del corteo ormai, perché chiaramente anche parlando mi sono dovuta fermare, quindi abbiamo fatto almeno due fermate di metropolitana. Alcuni sono rimasti, per rispondere alla tua domanda, alcuni sono rimasti in stazione, non riesco a quantificarli ora perché non sono lì, però non tutti hanno deciso di partire. Devi pensare che tanti avevano bambini, la maggior parte infatti, sono situazione famiglie. Quindi una sorta di una via di mezzo tra una manifestazione e comunque una richiesta di attenzione. Grazie Valentina Furlanetto, lo ricordo, in diretta da Budapest. Trovate tra l'altro gran parte i suoi racconti, le cronaca, nella nostra pagina naturalmente www.radio24.it. Ora ringrazio e saluto e ringrazio di essere con noi il dottor Roberto Sgalla, direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni, reparti speciali delle polizie di Stato. Buongiorno. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Dottor Sgalla, per fortuna che dicevano che il treno era un mezzo, come dire, vecchio, lo dicevano anche della radio, c'è sempre stato. Il treno è al centro di tutte le crisi. No, è anche degli aspetti positivi. Assolutamente, certo, assolutamente. Il treno tutti, al centro della nostra vita, va bene. Esatto, no, esatto. Questa era una battuta per dire che in tutto questo naturalmente ci sono anche delle implicazioni. Sulla sicurezza se ne è discusso qualche giorno fa a Parigi, i ministri dei trasporti si sono incontrati. Insomma, per voi c'è molto lavoro in vista per una sicurezza che è sempre più complessa e che richiede forze, mezzi. Come siamo messi? Esatto, una sicurezza complessa che prevede, deve assolutamente mettere insieme più soggetti, pubblici e privati. Noi facciamo il nostro, e cioè scortiamo i treni critici, quelli che vengono definiti così attraverso un protocollo con Ferrovie, garantiamo la vigilanza delle stazioni. Non dimentichiamoci che ogni giorno 3 milioni e mezzo di passeggeri prendono il treno. E la quantità in di Italia reali, tutto questo? In Italia, certo. E la quantità di reati rapportati a questo numero, che sarebbe una grande città, Roma fa 4 milioni, sono sicuramente un dato estremamente positivo, cioè sono pochi i reati che vengono commessi. Certo, noi dobbiamo capire, dobbiamo comprendere anche quello che la gente percepisce, cioè percepisce oggi come un territorio non completamente sicuro. Ecco perché dobbiamo intervenire sul piano nostro della vigilanza, della presenza, della visibilità, ma anche sul piano di quello che può fare il mondo delle ferrovie, i varchi. Milano, Firenze e Roma oggi hanno i varchi, quindi si potrà accedere ai binari solo attraverso l'esibizione del biglietto, e quindi chiaramente questo aiuta a selezionare i soggetti. Cioè cambia l'architettura delle stazioni che si devono adeguare alle esigenze. I sistemi di videosorveglianza, oggi tutte le stazioni e i treni, quelli che ce l'hanno bene, quelli che non ce l'hanno ce le vanno a dotare, dovranno avere strumenti, quindi occhi che aiutano gli operatori di polizia a fare l'attività di prevenzione. Ancora, sicuramente campagne di comunicazione e di informazione. La stazione è un luogo delicato, va utilizzato in modo corretto, la gente deve rispettare le regole perché questo è indispensabile, e noi dobbiamo fare, e lo stiamo facendo, una grande opera anche di visibilità per assicurare l'opinione pubblica. Ecco, le stazioni poi, diciamolo pure, sono anche un luogo di ricovero, sono un'estrema situazione per trovare un luogo dove passare una notte, spesso, situazione, esatto, insomma, diventa una città. È una città, Roma, la stazione di Termini ogni giorno ha 450.000 cittadini. Buona parte va a fare le spese, perché oggi le stazioni sono diventate anche centri, certo, commerciali importanti, quindi chiaramente anche un volano nell'economia. Moltissimi vengono per prendere i treni, ci sono librerie, ci sono negozi di abbigliamento, c'è anche una popolazione che purtroppo frequenta la stazione, in parte perché pensa che sia facile delinquere, e invece credo che su questo versante trovi un po' anche pan per i propri denti. E poi c'è una popolazione anche di emarginati, certo, di persone, gente che trovano nella stazione un luogo di riparo, un tetto. Non dimentichiamoci che gli immigrati hanno utilizzato alcune volte le stazioni anche come luogo di passaggio per passare. Assolutamente, Milano e i profughi, esatto, siriani sono un quindi caso eclatante. Quindi credo che su questo versante la polizia ferroviaria sta facendo un lavoro enorme, ha un profilo e di professionalità e di umanità adeguata, uomini e tecnologie al servizio di chi utilizza uno strumento, come diceva lei, un mezzo sempre nuovo. Dottor Sgalla, in una battuta, il problema numero uno oggi qual è? Mezzi, soldi, formazione? No, oggi il problema principale è quello carattere psicologico, cioè far capire alla gente che la stazione è relativamente sicura, con un quel mix che lei ha detto, formazione, uomini e mezzi. Grazie al dottor Roberto Sgalla, direttore generale per la Polizia Stradale. Dunque un lavoro, come dire, tutto questo naturalmente ci descriveva 3 milioni di, e mezzo di persone, questo non ha nulla a che fare col grande tema della migrazione, ma c'è anche questo, e naturalmente la ferrovia è il mezzo prediletto e privilegiato. Bene, sono quasi le 13.30, è tempo di borse. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ancora un saluto da Gigi Donelli. Dunque, naturalmente Budapest, i migranti lasciano la stazione, si mettono in marcia, almeno dicono, verso l'Austria, verso Vienna, che dista più di 200 chilometri. Intanto il Pentagono lancia l'allarme, la crisi durerà 20 anni, e Putin replica, l'avevamo detto, le conseguenze politiche se la suma l'Occidente. Padoan cala il deficit, taglieremo le tasse, lui non potrà dire di noi. noi ancora naturalmente il cinema, lo sport, ma di tutto questo parleremo anche più ampiamente nel corso dei programmi pomeridiani. Adesso è tempo di borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Buongiorno all'equipaggio di nave Libra. Libra è uno scafo in ferro con tante persone dentro. Era il 23 giugno 2013, data della prima navigazione del comandante Katia Pellegrino a bordo di nave Libra. Il Libra è sentirsi veramente parte di qualcosa, qualcosa di importante. Carissimo comandante, abbiamo trascorso un anno intenso e frenetico, sotto tutti i punti di vista. Un anno in mare a salvare persone, a salvare appunto chi ne aveva e ne ha avuto bisogno. Questo è il lavoro del comandante Katia Pellegrino, naturalmente nota in qualche modo per essere il primo comandante donna della Marina Militare Italiana. L'abbiamo sentita, un comandante che adesso si occupa di sicurezza a tutto campo. Ecco, esatto, Mari Sicuro è nata proprio per questo, è nata per controllare quel mare che poi è il nostro mare e proteggere le coste italiane, ma non solo le italiane, che poi sono, diciamo, se vogliamo, una frontiera, no, per l'Europa, da tutte le attività illecite anche collegate col fenomeno dell'immigrazione. Non dimentichiamoci che tantissime persone che non hanno scrupoli, persone prive di scrupoli, sfruttano la disperazione della gente per trarne vantaggio, e quindi noi siamo in mare anche per questo, per raccogliere prove, per raccogliere informazioni che possono poi condurre alla cattura di scafisti piuttosto che di membri dell'organizzazione impegnati ad ogni livello. Ecco, il comandante Pellegrino è, se non ricordo male, il primo comandante donna della Marina Italiana? Esatto, è vero, sono stato il primo comandante donna di una nave della Marina Militare Italiana. E così l'abbiamo ricordato, ma è stato il comandante dal giugno del 2013, lei ha assunto il comando della nave Libra e come ha raccontato è stato davvero anche una svolta, immagino, personale molto profonda, perché si è trovata nel mezzo di quella che è diventata la grande emergenza profughi. Sì, è vero, e il comando, diciamo che quasi tutto il mio comando è stato segnato dall'attività, dall'impegno costante per l'emergenza profughi, e la nave era veramente, non dico 14 mesi su 14, quelli che sono stati poi i mesi del mio comando, e in mare senza sosta per salvare poi vite umane nell'operazione che è stata Mare Nostrum, ma poi per portare avanti quello che era l'impegno che la Marina porta avanti da decenni, ovvero la presenza, la sorveglianza nel Mediterraneo, la vigilanza pesca contro il pericolo, la minaccia portata ai nostri pescherecci dalla Tunisia, ormai diciamo in fase calante grazie alla presenza della Marina, e poi la capacità di fronteggiare appunto quella che è stata un'emergenza di migranti dovuta successiva alla caduta della Libia. Ecco, chiaramente in quel periodo, se non sbaglio, voi siete intervenuti, cioè avete salvato circa 3.000 persone in 12 mesi, è corretto? Sì. Sì. 3.000 persone in mare. In mare, esatto. Quindi un'impressionante media di a poco sotto, appunto, le 10-12 persone al giorno, insomma un intervento continuo. È un impegno costante che c'è 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per le navi della Marina Militare Italiana. Il Libra è stato, se vogliamo, la finestra sul mondo, più che altro la finestra per gli italiani sulla nostra Marina, è stato un veicolo per far transitare il messaggio di quello che fanno i nostri uomini tutti i giorni in mare, nascosti, no? Allo sguardo del cittadino. I nostri uomini e le nostre donne, potrei dire. I nostri uomini e le nostre donne. È stato davvero una svolta anche culturale per voi, Cioè avere a che fare, perché lì l'operatività è davanti a tutto, il resto sono chiacchiere. Esatto, l'operatività è davanti a tutto e conta più di tutto il resto, conta più del sesso di chi è operativo, conta più delle polemiche che sono nascoste o che diciamo si nascondono dietro all'operatività delle nostre navi, dei nostri uomini che fanno veramente un sacrificio grandissimo, stando lontani giorni e mesi, come attualmente adesso il dispositivo Mare Sicuro sta facendo, dalle proprie famiglie. Comandante, un'ultima battuta nel ringraziare lei, i suoi uomini, come dice, le sue donne, del lavoro che svolgete. Lei a un certo punto ha detto: salvare i migranti in qualche modo ha salvato anche noi. Ora, al di fuori della retorica, che cosa intendeva dire? Beh, ti apre la mente. Salvare delle vite umane ti dà uno stile nella vita, ti dà un senso più profondo e della tua esistenza e di quello che fai tutti i giorni, e ti dà la possibilità di capire che quello che stai facendo è veramente importante. Mi smentisco e le faccio adesso l'ultima domanda. Credo che abbiate avuto anche l'occasione di interagire molto di più con i vostri colleghi delle marine di altre nazioni. Sì, moltissimo, e Mare Sicuro è stata la prima che ha avuto a che fare con le marine inglesi, tedesche, irlandesi, che sono state le prime ad arrivare nel Mediterraneo con l'unico scopo di effettuare soccorso. Siamo stati i primi ad avere i contatti, a stabilire delle comunicazioni, un coordinamento dei soccorsi da effettuare ed è stato veramente, devo dire, anche sorprendente. Perché forse un po' tutti noi non ci aspettavamo una reazione di questo livello, c'è stato l'inizio e attualmente sta continuando con numeri sempre maggiori, con impegni sempre più significativi. La gente di mare ha reagito subito. La legge del mare vale per tutti, la vita umana in mare conta e chi va per mare non può girarsi dall'altra parte. Comandante, grazie di cuore, buon lavoro. Grazie a voi. Dunque, abbiamo conosciuto il comandante Pellegrino ed è stato davvero un bel incontro in queste giornate in cui naturalmente teniamo puntati gli occhi sulle crisi, le difficoltà, molto meno su chi lavora tutto l'anno per appunto per chi ne ha bisogno. Grazie al comandante Pellegrino e adesso ci occupiamo di immagini, ma di immagine con sostanza, perché l'immagine ha sostanza soprattutto quando si parla di Venezia Cinema e dunque la nostra Marta Cagnola. Il giorno di Johnny Depp oggi a Venezia è tornato al Lido per presentare fuori concorso Black Mass. E qualche tempo dopo si è ritrovato boss. Tuo fratello si è tuffato in acque molto torbide. Gli affari di Jimmy sono gli affari di Jimmy. A tutti serve un amico. Perfino a Jimmy. Perfino a te. Il film nelle sale a ottobre è la storia del più famoso gangster di Boston, Jimmy Whitey Bulger, che fu poi condannato a 2 ergastoli e ancora oggi in carcere a 86 anni. Il film racconta le imprese criminali del malavitoso di origine irlandese con un fratello senatore, interpretato da Benedict Cumberbatch, e soprattutto il legame con l'agente dell'FBI, del quale divenne informatore. Per Johnny Depp, ragazzi e ragazze in coda davanti al red carpet già da stamattina. In concorso invece Alexander Sokurov con Francofonia, che il regista porta al Lido a 4 anni dal Leone d'Oro vinto per Faust. Un film decisamente non convenzionale, incentrato sull'incontro che si tenne nel 1943 tra il capo dell'amministrazione nazista e il direttore del Louvre, durante il quale si decisero le sorti dell'arte. In corsa per il Leone oggi anche Marguerite di Xavier Giannoli, liberamente ispirato alla vita del soprano americano Florence Foster Jenkins. Per Giannoli, applausi alla prima proiezione stampa. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 ore. Dall'immagine all'immagine, l'immagine di questa settimana, l'immagine drammatica che colpisce e fa discutere. Daniele Biacchessi. Una immagine descrive più di ogni altra cosa un fatto di cronaca e ne diventa il simbolo. Proprio come accade in queste ore con quella che ritrae Aylan Kurdi, 3 anni, profugo siriano. Annegato insieme al fratello e alla madre nel tentativo di raggiungere Kos. È ritrovato poi sulla battigia nei pressi di Bodrum, in una spiaggia che è una delle più importanti della Turchia. Una maglietta rossa e pantaloncini scuri riverso in giù, l'acqua che gli lambisce il volto. quella fotografia si è trasformata nel simbolo della più grave emergenza umanitaria degli ultimi anni. I capi di Stato di tutto il mondo si disperano, il popolo dei social condivide l'immagine con citazioni letterarie. Tanti utenti sono convinti che le parole non hanno la stessa forza delle immagini. Altri si chiedono se sia necessaria una foto per smuovere le coscienze e che servirebbe meno finta indignazione e più corridoi umanitari. Pochi, pochissimi chiedono di fermare quella che poi definiscono morte che si trasforma in spettacolo. Forse ha ragione il settimanale cattolico Famiglia Cristiana, quando definisce quello scatto il simbolo del fallimento dell'Europa sul piano umanitario. E ora la viabilità.